Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, come ogni giorno facciamo il punto sul coronavirus. Oggi in linea con noi la professoressa Susanna Esposito, presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici e ordinario di pediatria all'Università di Parma. Professoressa Esposito, buongiorno e benvenuta. Grazie mille, buongiorno a tutti. Professoressa Esposito, i ricercatori dell'Istituto Spallanzani di Roma sono riusciti a isolare il virus. Qual è il contributo della scoperta italiana alla ricerca che a livello mondiale è impegnata nello studio di questa variante del coronavirus? È un contributo molto importante, in quanto sicuramente i primi studi avevano permesso di identificare l'esistenza di un nuovo virus che era stato sequenziato perlomeno in parte, cioè si erano identificate delle novità rispetto ai coronavirus precedentemente noti. Oggi avere un virus che è stato identificato nelle colture cellulari vuol dire avere a disposizione un virus vivo che può essere sequenziato nel suo complesso, che può essere confrontato con eventuali altri virus anche della stessa categoria che si sono diffusi in altri paesi sia europei che extraeuropei, possono essere in questo modo identificate eventuali mutazioni quando il virus si replica ed è anche possibile capire come il virus causa malattia, cioè che cellule infetta, con quale meccanismo, con la possibilità poi successivamente di testare terapie antivirali per vedere appunto se sono efficaci a che dosi e anche per identificare nuovi target per lo sviluppo di un vaccino. Professoressa Esposito, parla di farmaci antivirali e di vaccino. Possiamo parlare anche di tempi? Potete prevedere quanto possono essere vicini o lontani? Non è possibile, a mio avviso, fare una divisione realistica di questo. Primo perché l'epidemia ha sicuramente causato moltissimi episodi di malattia, ha causato un elevato numero di decessi, ma di sicuro oggi la misura migliore per contenerla è quella relativa alle precauzioni di sanità pubblica che appunto consistono nell'isolamento. Quindi noi non sappiamo quanto durerà questa epidemia. Quello che sappiamo è che per sviluppare nuovi farmaci, nuovi vaccini, è necessaria una ricerca clinica prolungata che porti sia all'identificazione di prodotti terapeutici o preventivi che agiscono sul virus stesso, che anche siano in grado di determinare una risposta immunitaria che persista nel tempo e che possa essere da una parte efficace e dall'altra associarsi a sicurezza nei soggetti vaccinati. Quindi normalmente per sviluppare un vaccino ci vogliono alcuni anni e così pure per sviluppare una terapia che poi possa essere disponibile. Penso che il grande successo sia comunque l'aver identificato il virus e l'averlo isolato, in quanto non dimentichiamoci che effettivamente dal 2002 ad oggi questa è la terza grave epidemia causata da questi agenti infettivi. Professoressa Esposito, rapidamente, prima di salutarla, uno sguardo ai dati che arrivano dalla Commissione Sanitaria Nazionale. I 361 morti in Cina legati al nuovo coronavirus di Wuhan superano i decessi causati dalla SARS e anche i contagi totali del coronavirus sono più del triplo di quelli della SARS. Che cosa ci dicono questi dati della contagiosità e della mortalità di questo virus? La SARS è una malattia estremamente grave e infatti a fronte dei primi casi e dei primi decessi c'è stata un'immediata allerta. In questo caso ci troviamo di fronte a un virus per cui non esiste ancora una protezione immunitaria da parte della popolazione, di conseguenza il virus si è diffuso con facilità in soggetti che erano di fatto suscettibili ad esso. I casi sono stati sicuramente tanti, la mortalità però rientra ancora in quelle che sono le mortalità dei virus respiratori, siamo al 2,7%. È un po' interessante analizzare se questa mortalità ha coinvolto prevalentemente soggetti a rischio come possono essere anziani o soggetti con patologie croniche. Quindi questi numeri ci dicono che di sicuro abbiamo un virus contagioso, attualmente il suo indice di replicazione è stato considerato 2,6 che rientra tra i virus di moderata contagiosità, di certo il morbillo ha una contagiosità capacità molto più alta. Sì, ma la popolazione naturalmente certo è più immune nei confronti del morbillo, quindi qui abbiamo una suscettibilità del 100%, una tendenza alla contagiosità di questo tipo e di conseguenza moltissimi casi con una mortalità mortalità del 2,7%. Professoressa... Ancora una volta questi numeri sottolineano l'importanza dell'isolamento. Grazie professoressa Esposito, la linea naturalmente passa a Melog, io vi aspetto in diretta Facebook per parlare di spalla.